Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, la grande crisi del Partito Democratico, il che fare col punto di domanda che si prospetta alla vigilia della Assemblea Costituente, cioè 2500 dirigenti, che però sai, 2500 sono tanti, si prospetta per domani convulsa, tempestosa, problematica, drammatica, forse interessante, forse convergente, forse divergente, forse anarchica, non si sa. Questa assemblea è veramente candidata ad essere una sorpresa per tutti. Secondo me l'esplosione del PD e la sua, diciamo, il suo farsi in pezzi non conviene al Paese. Lo dico a Berlusconi, scrivo articoli su tutti i giornali possibili, compresi i suoi come Panorama, e sentite come mi risponde Berlusconi a me e anche al suo vecchio amico Fedele Confalonieri, che la pensa nello stesso modo. Sentite. Io in tutti gli anni in cui sono politica mi sono confrontato in 15 anni con 7 leader diversi, che poi sono andati a casa. Arriverà l'ottavo e credo che non vorrà tradire la regola della sinistra. Capito? Ecco, quell'aria compiaciuta proprio da Caimano, veramente da Caimano, col dentone che zà, azzanna la carne dell'avversario sconfitto e fa correre il sangue. Pazzesco, pazzesco. D'altra parte Berlusconi è convinto che se uno sta sotto deve un po' subire, perché è un uomo realista, ma se sta sopra, giù, di martello, quindi ogni elezione vinta diventa ancora più cattivo. Secondo me sbaglia, però io che autorità ho per guidare l'uomo che ci guida, il nuovo padrone d'Italia? Nessuna. E la grande crisi del PD quindi diventa un problema molto serio, molto... Non so se Veltroni con le sue dimissioni ha messo le cose nel modo migliore per una soluzione, diciamo, pacifica. Ecco, vedremo. Noi abbiamo qui Stefano Ceccanti, che è stato un collaboratore leale di Veltroni, che è un giurista, che è un dirigente del partito e che è su una posizione drastica: subito il nuovo segretario, subito le primarie, subito una scelta, perché altrimenti la crisi diventa ingovernabile. E abbiamo qui Nicola Latorre, che è un mandarino, se così posso dire, nel senso cinese del termine, cioè un autorevole istituzionale capo della tendenza o dell'area che fa riferimento all'onorevole D'Alema, oltre che un vecchio dirigente di scuola comunista e post-comunista. E Latorre invece dice: no, andiamoci piano, facciamo una cosa seria, un passo dietro l'altro, eleggiamo adesso Franceschini vice segretario di Veltroni e poi in autunno, dopo le europee, facciamo un congresso con tutti i tempi giusti, eccetera, e ci scegliamo un nuovo segretario senza anarchismi. Poi più tardi avremo anche al telefono Sergio Chiamparino, sindaco di Torino. Bene, 800 24 00 24, parliamo della grande crisi del PD a caldo, alla vigilia dell'assemblea che dovrà decidere il drizzone che prende questa crisi. Veltroni ha lasciato con un discorso che tutti dicono avere un discorso bonario, non ha sbattuto la porta, però ne ha detta una un po' insidiosa, insomma, che crea un certo patema d'animo dentro il partito. Sentiamola. Devo dire di non avercela fatta, ed è responsabilità mia, la prendo sulle mie spalle, tutta per intero, di non avercela fatta a fare il partito, non solo che sognavo io, ma che sognavano i 3,5 milioni di persone che hanno votato alle primarie. Non ce l'ho fatta e chiedo scusa di non avercela fatta. Quello che posso garantire a chi verrà dopo di me, e che vale per me un principio antico, non fare agli altri, io non posso dire quello che non vorresti, quello che è stato fatto a te, non farlo agli altri, io non lo farò. Ecco, intorno a questa frase, a questo applauso, si può coagulare, ne parliamo subito con Stefano Ceccanti, un forte malumore, perché questa frase è insidiosa, cioè Veltroni ha detto: io non sbatto la porta, mi assumo le mie responsabilità, non, insomma, è colpa mia, io volevo fare un partito, non ci sono riuscito, ho fallito, punto. Poi ha detto però: non farò agli altri quello che è stato fatto a me. E quindi ha detto, forse alludendo anche un po' all'onorevole D'Alema, io questo non lo so, non voglio più, siccome l'onorevole D'Alema è arrabbiato con me, dice sono fesserie, Ferrara è legato a Berlusconi, figuriamoci se io ho contato qualcosa nella crisi della direzione veltroniana. Però forse, allora, che succede domani mattina, Ceccanti? L'assemblea costituente, i 2500 che sono oggi la base, il vertice, diciamo, di un partito senza segretario, eleggeranno Franceschini e si accorderanno per una transizione pacifica, o tireranno le scarpe al gruppo dirigente come è successo a George Bush a Baghdad? Ma veda Ferrara, il problema è questo. Possiamo noi, quando è in discussione non un segretario ma una linea politica, decidere di eleggere un segretario sostituendo uno eletto da 3 milioni di voti con uno eletto da 2.000 persone, quando quelli che vorrebbero eleggerlo pensano cose opposte sulla linea politica? Perché qui noi abbiamo Franceschini che si presenta dicendo sono il continuatore di Veltroni, la linea va bene, Veltroni si è dimesso, lo sostituisco io, e D'Alema che dice la linea di Veltroni è radicalmente sbagliata e sì, per questo voto Franceschini. Ma le sembra un paese normale? Se c'è da modificare una linea, non solo un segretario, si torna alla fonte della legittimazione, cioè i 3 milioni di elettori, perché non si può fare un accrocco oligarchico di questa natura. Io spero che l'Assemblea capisca questo, perché temo che se l'Assemblea fosse accettasse questa soluzione di tregua confusa, questo sarebbe perfettamente legale, ma sarebbe percepito come radicalmente illegittimo dagli elettori del Partito Democratico che alle europee votano. Cioè lei dice se c'è un accordo fra i 2005, perché poi alla fine diciamo i capi tendenza riescono a mansire i bollori della platea e ci si accorda per un percorso in cui non si rimette in discussione tutto e non si ridà il potere agli iscritti e agli elettori che votarono alle primarie, è un disastro, perché poi quell'accordo lì dentro diventa fuori invece uno stato sì, di marasma. Perché se fossimo tutti d'accordo che c'è una linea e si tratta condivisa, si tratta solo di cambiare segretario, avrebbe senso eleggere un'assemblea, ma siccome non siamo d'accordo e sono già state enunciate le piattaforme alternative chiare, sono già presenti nel dibattito. L'obiezione è radicale, molto forte, tipica di un dirigente politico che è anche un professore, un intellettuale, invece un dirigente politico più sperimentato e più che conosce più gli apparati, la realtà dei partiti, il loro modo di procedere, come Nicola Latorre, ci deve dare l'altra versione. Sì, innanzitutto buongiorno agli ascoltatori e buongiorno a lei. Qui non è in discussione il fatto che dopo le dimissioni di Veltroni si debba procedere all'elezione del nuovo leader con una consultazione primaria. Questa è una decisione che ormai è stata assunta, dalla quale non si potrà mai più tornare indietro. Il problema è come noi gestiamo... Sia sincero, dottore, se fossi in lei, diciamo solo ed esclusivamente in base alla sua esperienza e alla sua cultura... Lei non preferirebbe eleggere un segretario normalmente in un comitato centrale? Guardi, non ho difficoltà, anche perché non devo smentire che ho detto pubblicamente in tempi non sospetti. Io sono convinto che il leader di una coalizione di governo è giusto sceglierlo con le elezioni primarie. Sono altresì convinto che il capo di un partito viene eletto dagli iscritti al partito. Del resto, nelle migliori tradizioni, come quelle alle quali spesso si fa riferimento, come il Partito Democratico Americano, il leader che si candida alla Casa Bianca viene eletto con le primarie, ma il capo del partito viene eletto normalmente all'interno del partito. Lì c'era il capo del Partito Democratico, era Howard Dean, il candidato. Però c'è un altro meccanismo. Comunque, sì, questo non però vorrei il suo parere personale. Questo lei è stato dice, sempre il lei mio parere dice, personale. Lei però dice... Però ormai questo è un dato che dal quale non si può più tornare indietro, e devo dire con altrettanta onestà, pur avendo questo pensiero, che l'elezione del segretario con le primarie è stata un'esperienza straordinaria che ha innescato anche un processo in una fase estremamente delicata, difficile nel rapporto anche tra i cittadini e la politica. Detto questo, vorrei che non fosse trascurato il fatto che noi siamo in un passaggio estremamente delicato, che la vita democratica del nostro partito viene regolata da uno statuto che è una specie di mostro, nel senso che per fare le primarie noi dobbiamo essere realistici. Per fare le primarie oggi noi dovremmo fare una campagna congressuale. Una campagna congressuale alla fine della quale si indicano i candidati alle primarie, poi fare la campagna delle primarie, poi fare il voto per le primarie, e questi due voti coinciderebbero con le elezioni europee, cioè praticamente noi avremmo due schede, con una scheda dovremmo andare a votare in un luogo e con un'altra scheda andare a votare in un'altra, cosa che considero inopportuna in questo momento. Allora, chiariamo le cose. Qui c'è una scelta guardi, che è stata... Guardi, c'è Stefano da Milano che secondo me le viene in soccorso. Stefano? Buongiorno Ferrara, buongiorno agli ospiti. Com'è la faccenda? La vedo molto surrealismo dalla scheda che mi danno. Sì. Qual è la sua idea? Io dicevo semplicemente questo, che quando Berlusconi dice che hanno votato nei suoi gazebi 3 milioni e mezzo di persone, siccome io sono di destra, lo dico, e non sono coglione, so che è una battuta, quando lo dice Veltroni, sembra, la sua politica è basata che ha avuto 3 milioni e mezzo di elettori, ma è una sconfitta totale per la sinistra, hanno sbagliato gli elettori, hanno sbagliato i dirigenti, compreso D'Alema che non può fare un passo indietro e dire no, io non c'ero, non ho sentito, e Veltroni. Quindi questi dirigenti domani si dovrebbero sedere a un tavolo, niente primarie, e decidere chi, perdoni l'espressione, ha le palle di combattere contro Berlusconi. Bene, grazie. Una voce realista da destra in, diciamo, in sostegno delle tesi meno assembleari, meno sovietiste. Prego, dottore, continui e concluda il suo pensiero. Allora, concludo. A questo punto Veltroni, dimettendosi dall'incarico, e il coordinamento del partito all'unanimità hanno ipotizzato una soluzione transitoria di qui al congresso che si dovrà svolgere con il meccanismo delle primarie. Non c'è dubbio, io qui voglio dirlo con molta chiarezza, che il momento è talmente delicato che si richiede un massimo di responsabilità e anche tanta attenzione agli umori e ai sentimenti del nostro popolo, dei nostri elettori e dei nostri militanti. Dunque, domani c'è una proposta del segretario uscente e del coordinamento e c'è un'assemblea che deve valutare questa proposta. E io credo, e parteciperò anch'io a sostenerla, che se questa proposta registra un consenso convinto, noi dobbiamo andare avanti su questa strada. Viceversa, se c'è un orientamento diverso, parliamoci chiaro, bisognerà modificare alcune regole statutarie e pensare ad un passaggio di elezioni primarie che però sia rapidissimo, perché noi dobbiamo essere subito nelle condizioni di affrontare la battaglia politica concreta. Mi pare che il senatore Latorre dica una cosa, lui dice verifichiamo, se poi non c'è consenso, se l'assemblea risulta radicalmente spaccata, se questi 2500 che sono, ripeto, sia base sia vertice oggi, si riuniscono e dicono no signori, dicono quello che ha detto Ceccanti, noi non vogliamo generare un altro equivoco, vogliamo poter avere la capacità di decidere tra leader e linee politiche diverse, contrapposte, che si confrontano e che vengono votate, no? Se, dice la Torre, se questa cosa emerge con forza dentro l'assemblea, allora bisognerà fare le primarie con procedure d'emergenza molto rapide, eccetera. Sì. Allora, Ceccanti, ma lei, Parisi, eccetera, siete giudicati all'esterno degli osservatori politici come persone molto rispettabili, eccetera, che animano la discussione politica, eccetera, però non avete truppe. Quanti siete? Quelli io che... non sono Parisi, innanzitutto, ognuno... Sì, no, ma sì. No, lo dico per dire politologicamente, più o meno lo stesso, lei era collaboratore di Veltroni, Parisi era un oppositore di Veltroni. Io colgo in queste ore... Siete professori. Io colgo in queste ore gente la più varia, che ha posizioni di merito le più varie rispetto a quale debba essere il futuro segretario, che mi esprimo il loro consenso su questo. Vedremo quanti saranno assemblee. Lei ha aperto un blog, ci racconti un po' di cose, che ha fatto? No, veramente, io sono stato prima bombardato da mail di persone che dicono, di elettori delle primarie che verranno fuori dall'assemblea dicendo aspetta a noi scegliere il segretario e non a voi. Poi da alcuni... Ma dove gliel'hanno mandate queste? Me l'hanno mandato sulla mia mail, su Facebook. E come con... Ah, lei è uno io sono anche Facebook, su Facebook. Ma che la politica si fa anche attraverso Facebook. Fattore, come faccio? Io non so niente di questo Facebook. Ahimè, Gianluca Nicoletti visto... sa tutto, ci fa tutta la trasmissione dopo di me. No, io sto... Che è sto Facebook? Non... Anch'io sto cercando di cimentarmi con questo oscuro oggetto, diciamo, di questa epoca. A me piacerebbe non Facebook, tant'è vero sono venuto alla radio per evitare... No, sarebbe sbagliato, partecipare a un movimento no Facebook, però, però illudersi che la politica si possa svolgere su Facebook, esclusivamente su Facebook, comunque, è un pericolo. Ceccanti, cosa le hanno detto questi amici di Facebook? Le hanno detto niente, vogliamo il voto. Che non è assolutamente congruente l'idea di dire c'è un partito a rischio sopravvivenza e dire poi al segretario se lo scelgono c'è i mille. Luigi da Pisa che secondo me le viene in soccorso. Luigi? Lei vuole il rinnovamento totale, eh? Luigi? Sì, io volevo il rinnovamento totale perché vorrei che questa classe che ha ancora discute di Facebook, se usato o non usato, non ci sono certo più le vecchie sedi dei partiti a decidere qualcosa. Io mi riguardo l'esperienza di Firenze, candidati portati avanti dalla monitoratura e spazzati via da un 34enne che porta un po' di rinnovamento in questo partito. Ci vuole rinnovamento, se no Berlusconi vincerà da qui al 2025 se il signore non ci penserà più da prima. No, adesso, lunga vita. Senta Luigi, volevo dirle una cosa, ma dicono che, non so se sono degli antipatizzanti di questo Matteo Renzi, il 34enne che ha sbaragliato tutti, ha preso il 40% dei voti, dicono però che il 23%, cioè quasi un quarto dei suoi elettori, cioè circa 3.000-3.100 elettori, sarebbero gente di destra, cioè elettori di destra che poi voteranno per il candidato sindaco del centrodestra, che sono andati a votare per Renzi dicendo vabbè, mettiamo un euro, andiamo lì, votiamo e diamo una mano a questo ragazzo che in fondo è il migliore di tutti. Perché lì, non dovrebbero votarlo anche alle elezioni vere? Poi? Perché loro c'hanno il loro candidato. C'è anche l'elettorato borderline. Comunque è vero allora, però lei conferma? No, io non confermo, dico questo. No, che... confermo o non confermo? No, io non so se questo sia vero, dico che non mi sembrerebbe strano che una città come Firenze, dove una parte del centrodestra pensa che vinca comunque il centrosinistra, decida di dare una sorta di voto utile alle primarie. Certo. Ma questo non falsa un po' tutta la logica politica? Cioè, allora... Il candidato sindaco di Firenze dei Democratici è scelto in parte per un quarto. Scusi Ferrara, ma in molti stati americani si decide per quale primaria votare in cabina. Quindi... Certo, c'è il voto disgiunto cosiddetto, certo. Non so, a lei piace questo sistema? Le primarie col voto di quelli di destra che scelgono il candidato di sinistra? Beh, guardi, insisto, la scelta... No, per cui sarebbe proprio il caso, perché il 40% evita a Renzi il ballottaggio. Sì, ma io non credo, francamente, se un elettore di destra partecipa alle primarie, è orientato poi anche, se il suo candidato vince le primarie, a votare quel candidato anche nella competizione elettorale. Questo vale moltissimo, soprattutto a livello amministrativo, dove l'orientamento elettorale è determinato più dalla scelta della persona e del programma concreto di governo della città. D'altro canto, se così non fosse, in tante realtà dove nello stesso giorno hai un voto politico a destra e un voto amministrativo a sinistra, certo, non si spiegherebbe. Certo, questo è vero. Pubblicità e poi riprendiamo. Tra l'altro fra poco avremo al telefono anche il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che è un dirigente prestigioso anche dei Democratici, un possibile candidato a segretario nella prospettiva o in una prospettiva ravvicinata. Il Barrito 800 24 00 24. Sentiamo Angela da Bergamo. Umori malmostosi, non simpatici. Angela. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io ho votato 15 anni per la sinistra credendoci fermamente. Insegnavo, credevo nei valori sociali della sinistra, eccetera, eccetera. Per me è stato un vero disastro e penso che D'Alema sia il cancro della sinistra. La sua supponenza, la sua saccenteria, il fatto di non tenere assolutamente conto delle proteste degli elettori della base. La base non esisteva più, esistevano solo questi capetti della dirigenza e ha spazzato via tutti. Però Angela, D'Alema è un uomo lucido, questo non si può negare, cioè, è un uomo che sa come muoversi. Non è lucido, perché ha sacrificato un partito per i suoi obiettivi personali. Vuol fare il Berlusconi della sinistra, solo che ha sacrificato troppo, per cui questo partito si sta disfacendo completamente. E quindi io non voterò più per la sinistra assolutamente, anche se penso che qualcuno ci sia ancora. Franceschini non le ispira fiducia, perché? È una pappa molla, non ha l'energia per affrontare una situazione così critica e così drammatica. È come Veltroni era un buonino, vedeva un mondo ideale che non esisteva, non vedeva i problemi. Borsellino, la Iervolino, sempre lì sul cadreghino. Ma scherziamo, la gente vuole il rispetto di certi valori, l'onestà dei propri dirigenti. Quindi tutto questo ha determinato il fallimento. Chiamparino forse potrebbe essere il futuro capo, solo lui. Non è ancora stato toccato, ma è pericoloso per D'Alema e le astuzie di D'Alema prima o poi si faranno sentire anche su di lui. Il cappello pieno di sorprese di Bersani quando c'è il governo Prodi si è rivelato per quello che era, per cui non credo neppure in Bersani, assolutamente. Questo è il mio pensiero. Ti ringrazierò comunque dopo. Scusi? Alessandro. Niente, è diventata la trasmissione di Angela da Bergamo, sono stato cacciato, licenziato su due piedi. C'è Chiamparino o no? Io ci sono. Ah, ecco, dormiva il mio Alessandro. Chiamparino, come sta, sindaco? Io abbastanza bene, un po' di raffreddore, ma insomma. Lei viene domani all'assemblea dei costituenti? No, io purtroppo domani ho un impegno, sono a Bruxelles, quindi... E come, non viene? D'altra parte sa fare le riunioni di 48 ore, che ha impegni istituzionali, non è che può spostare tutto. Lo capisco. E se... sarà in spirito, che cosa direbbe? Cosa direbbe ai delegati? Pigliamoci Franceschini, direi... aspettiamo l'autunno per fare il congresso, oppure eleggiamo subito un nuovo segretario? La strada maestra sarebbe quella di fare un congresso e eleggere subito un segretario. Congresso, io devo dire, quindi non primarie, ma congresso subito. Il problema è che il mio timore è che, avendo le elezioni, specialmente quelle locali, a un tiro di schioppo, un congresso subito diventi l'esatto opposto di quello che si aspettano gli iscritti, cioè invece che produrre, diciamo, quello sforzo di creare, di dare risposta ai nodi che non abbiamo risolti. Non so, cominciamo da un tema che so che a lei è caro, anche se la pensiamo forse diversamente, come quello della bioetica, però... invece di dare risposte a questi temi e su questa base definire un profilo di un candidato alla segreteria, rischia di cristallizzare la situazione interna, perché poi in vista delle elezioni si sa benissimo che ognuno cerca la protezione di qualcuno per stare in quella lista, in quella e in quell'altra, e di avere quindi l'effetto esattamente opposto. Quindi io proporrei una soluzione di mediazione, cioè va bene Franceschini a condizione che si azzeri tutto ciò che c'era adesso a livello nazionale, quindi il governo ombra, il coordinamento politico, e si ricostruisca un gruppo che metta da una parte i segretari regionali, in modo che si valorizzi una struttura di partito, che si capisca che c'è, che funziona, e dall'altra parte dia una rappresentanza nuova, un po' più innovativa, alle varie sensibilità politiche e culturali, alle rappresentanze territoriali. Insomma, si faccia un gruppo di 30 persone che si assuma lealmente la responsabilità di condurre questo partito. Ma sindaco, se dovessi chiederle, adesso poi estendiamo ovviamente il dibattito anche agli ospiti in studio, ma dico, se dovessi chiederle alla radice del problema... perché può succedere, uno prende il 33-34%, non è una cattiva performance, dopo il governo Prodi Padoa-Schioppa poteva succedere via di perdere le elezioni, ma se non altro perché il governo si basava su una maggioranza risicata, è fallito dopo 2 anni, gli italiani erano in ansia, e poi insomma non ha funzionato molto bene, non ha coalizzato un blocco di consensi, su questo lo si sapeva anche prima delle elezioni. Dopodiché è vero, c'è stata Roma, che è stato un grave colpo a Veltroni, poi c'è stato il Friuli, poi c'è stato l'Abruzzo, adesso la Sardegna, e quindi insomma è saltato tutto. Però voglio dire, se lei dovesse dire perché, allora oggi D'Alema dice perché abbiamo sbagliato la linea politica e perché abbiamo pensato che una linea politica chiara e una gestione, un governo del partito chiaro potesse essere sostituito da un rapporto diretto tra il leader e la folla, il pubblico e gli elettori, cosa non possibile. Allora, lei, per lei, Chiamparino, alla radice della crisi cosa c'è? Veltroni che non ha funzionato o una linea politica sbagliata? Per me la radice della crisi c'è, cioè il fatto che si potrei dire i mutatis mutandis la stessa sindrome che ha divorato il governo Prodi, cioè il fatto che su qualsiasi questione strategica non si è mai riusciti a costruire una posizione che fosse un messaggio chiaro, esplicito all'opinione pubblica, e quindi a costruire una linea politica. Ma 5 mesi di Franceschini, cioè il vice di Veltroni, come diceva prima Ceccanti, che deve tirare avanti con una specie di comitato di garanti che sono poi tutti i capi, i notabili, insomma, come li vogliamo chiamare, gli oligarchi sembra una cosa brutta alla Putin, insomma, il gruppo dirigente, i capi tendenze. Non è esiziale, di nuovo non ci saranno sintesi politiche. Infatti, secondo me, diciamo, non devono esserci, e ho detto esattamente questo, cioè bisogna che, se la scelta è Franceschini, accanto non deve esserci, diciamo, il sinedrio dei capi correnti, dei capi gruppo, ecco. Questo è evidente, ci deve essere un gruppo, non a caso ho detto, da una parte ci saranno i segretari regionali, dall'altra parte ci sarà qualcuno che non può essere la riproposizione i sindaci, i sindaci in genere hanno il polso, diciamo, della folla, perché hanno un rapporto molto diretto con l'elettorato, con la città. Torino, diciamo, Torino Democratica, la Torino del Partito Democratico, le sezioni, i circoli, i consiglieri comunali, insomma la platea politica del Partito Democratico di Torino, come è in subbuglio, è invece lucida, mantiene una certa freddezza? Io percepisco molto malessere, adesso tra l'altro stasera andrò a fare un incontro in Madonna di Campagna, dove uno dei luoghi, diciamo, ancora di maggior insediamento e radicamento, però percepisco molto malessere. Poi non nascondiamoci dietro un dito, anche in quella che potrebbe apparire dall'esterno un'isola felice c'è una situazione molto, come dire, di crescente autoreferenzialità di questo partito. Anche a Torino, dice lei, insomma, c'è un grande disorientamento. Crescente autoreferenzialità, crescente, diciamo, lo scontro interno e tende ad essere privilegiato sulla capacità di iniziativa politica. Ma a parte la protesta, diciamo, quella generica, un po' più qualunquistica, che viene sempre dal basso, cioè mettetevi d'accordo, smettete di litigare, trovate una linea politica, risolveteci i problemi, quella, la protesta da delega, no? Che è quella un po'... A parte quello, si capisce in che solco vogliono camminare i componenti del Partito Democratico, che sono poi così diversi da loro, tra loro, si sono amalgamati, hanno un'idea comune, i cattolici. Ma il punto secondo me è quello, se il Partito Democratico riesce a costruire qualche sintesi un po' più avanzata sui temi cruciali, che sono i temi, diciamo così, identitari per un partito di questo genere, o se no non il fallimento sta lì, insomma, non è che e allora per costruire sintesi più avanzate non vuol dire andare tutti d'accordo, può voler dire anche creare delle rotture, anche delle spaccature che diventano punti di non ritorno, ma che non possono essere quelle delle case di appartenenza. Questa mi sembra la sfida. Certo. Allora, io le chiedo a lei, riusciamo a lanciare e a vincere questa sfida adesso, cioè in 2 mesi? Io ho la sensazione che sia difficile, se l'Assemblea ritiene che questa sia la strada, la si faccia. Io diciamo, mi azzardo una proposta di mediazione che potrebbe essere, diciamo, quella a cui ho accennato. Mi rendo conto che è di mediazione, però... Va bene, la Torre. Ma io vorrei ripartire dalla ascoltatrice che ha fatto questa filippica contro... Ha picchiato da lei, ma sì. Sì, ma io, intendiamoci, io rispetto le opinioni e ritengo che sia anche quello il sintomo di un malessere, di un disagio, di una parte consistente del nostro elettorato che cerca legittimamente e comprensibilmente una spiegazione, un capo espiatorio. A parte il fatto, diciamo, i toni di queste considerazioni ovviamente non li condivido, però cerco di comprendere le ragioni di questa critica. Intanto è la conferma che la discussione sulla crisi del Partito Democratico continua ad essere una discussione che prescinde dal problema di fondo, e cioè dal fatto che questo partito, un grande partito democratico, ha difficoltà ad avere un rapporto con la società italiana, e questo è determinato innanzitutto dal fatto che sulle grandi questioni all'ordine del giorno questo partito non esprime un orientamento chiaro sui temi che riguardano il destino della società italiana, le ragioni che animano lo scontro politico in questo momento. Noi addirittura abbiamo assunto in taluni casi il tema della libertà di coscienza come si direbbe una volta la linea del partito. La libertà di coscienza è un dogma assolutamente fondamentale. Posso farle in un partito democratico una piccola obiezione diciamo in termini di precisione? Beltroni doveva dire: ha ragione la CGIL, la riforma della contrattazione della CISL e della UIL non va bene. Poi doveva dire: ha ragione Beppino Englaro, bisogna fare come dice lui. È così, secondo lei? Perché dall'intervista di D'Alema di oggi sembra di capire questo. Doveva raccogliere gli orientamenti e le opinioni di un partito che poi dovevano riassumersi in un orientamento fermo e chiaro sulle diverse questioni. Noi abbiamo avuto solo su 2 problemi in questi mesi. Non appaia molto esasperata questa mia critica. Su 2 problemi abbiamo avuto una linea forte: sui temi della RAI e della legge elettorale. Due questioni delle quali io credo che alla società italiana interessi molto relativamente. Invece io penso che noi dobbiamo stringere su queste questioni, e non c'è dubbio che questa fase, che inizia domenica, deve misurarsi innanzitutto con questo problema. Qual è la formula migliore dal punto di vista organizzativo? C'è il pensiero di chi ritiene che si debba andare a questa soluzione, insisto, in assemblea io sosterrò questa posizione, se ne ritiene un'altra, ma lo scopo deve essere questo. D'Alema ci sarà, che lei sappia? Ma io penso, guardi, D'Alema, ma oggi lo dico domanda, sempre, ogni domanda sembra scomoda, ma non no, è scomoda. No, no, no, credo sarà che, D'Alema, ma c'è sempre. Sono anche i suoi sostenitori. Prima abbiamo mandato una telefonata cattiva con lui. Giorgio da Terni, Giorgio. Allora, io sono un piccolo... Oh, pronto? Sì, sì, prego. Allora, io sono un piccolo imprenditore di Terni, che noi abbiamo votato sempre a sinistra. Mi devono dire adesso, questi signori, perché dobbiamo votare ancora a sinistra? Perché dobbiamo votare? Quando è stato rifondato tutto un partito, non gli è stato dato tempo al signor Veltroni di poter organizzare una certa cosa. Ha i suoi collaboratori più stretti che gli remano contro, mi dicano come noi dobbiamo continuare a votare a sinistra. Giorgio, lei nella scheda dice D'Alema deve uscire allo scoperto, cosa vuol dire? E certo, D'Alema deve uscire allo scoperto, perché ci siamo stufati di remare contro su tutto e contro tutti. Ah no, credevo che lei volesse dire D'Alema deve salvare il partito, che lei volesse fare un investimento politico emotivo sulla figura di Massimo D'Alema, non è così. Sono d'accordo che Veltroni doveva rimanere, doveva continuare a fare la sua politica, poi con calma le cose si chiarisce. Certo, non si può pretendere che nel giro di 6 mesi il partito è stato rifondato e si è andato al governo un'altra volta. Quella capito, lei dice tutto, troppa precipitazione, troppa ansia, eccetera. Senatore Ceccanti, Ernesto da Roma propone una soluzione estrema. Ernesto? Pronto, buongiorno. Sì. Ho visto che lei dice una cosa terribile, noi non l'abbiamo mai... No, è terribile, è realistica, cioè nel PD non si riesce a aggiungere alcuna sintesi, perché la componente cattolica, la componente post-comunista non riesce a aggiungere sintesi, la componente cattolica è troppo legata al Vaticano, alla Chiesa, cioè. E dunque, secondo me a questo punto è inutile stare assieme e cercare di fare mediazioni estenuanti, perché sembra di rivedere il governo Prodi in azione, ma questa volta è ristretto in un partito soltanto. E bisogna scioglierlo il Partito Democratico. Bisogna scioglierlo IDS, o come si dice, gli anarchinazzi, fare un vero partito socialdemocratico vero e proprio, senza più ambiguità, e sempre in alleanza ovviamente con la Margherita, però a questo punto ognuno guarda dentro casa sua e mette ordine dentro casa sua, perché così non è più possibile. Ho capito, Ernesto, iperrealistica la proposta. Ceccanti, ma c'è la possibilità proprio esistenziale che alla fine il Partito Democratico decida, non so, Rutelli, Letta, diciamo un certo classe dirigente cattolico moderata se ne va con Casini e si fa una grossa socialdemocrazia, magari più ampia, con apporti, eccetera. Ma guardi, io dico questo, nelle scorse settimane è stato squadernato tutto. Ci sono due linee politiche chiaramente alternative, si possono scrivere in 20 righe l'una e in 20 righe l'altra. Sul partito c'è quello che dice la Torre, differenziare la guida della coalizione dal segretario del partito, a differenza di tutte le altre forme parlamentari dove il capo del partito è anche il capo della coalizione. In Europa, sì. In Europa, invece questa è la tradizione italiana di separazione. Mm-hmm. Questi sono due modelli diversi di partito. Poi abbiamo la linea di politica estera, quello che ha esposto D'Alema alla Commissione Esteri da una parte e quello che hanno esposto Fassino e Rutelli dall'altra. Sono due linee di politica estera tutto diverse. Poi abbiamo sul testamento biologico la mozione fatta dal PD e le radicalizzazioni in senso laicista fatte per dimostrare ad arte che non è possibile la convivenza laici cattolici. E poi abbiamo l'accordo sulla contrattazione, il piano anticrisi del governo ombra e D'Alema che polemizza con la Marcegaglia. Sono due linee, si scrivono in 20 righe, si fa il congresso, abbiamo fatto le primarie in 45 giorni, si possono fare il 19 aprile le primarie. Mi piace, è astratto, ma mi piace quello che dice Ceccanti. Cioè, mi piacerebbe nel senso che come osservatore, anche come giornalista, oltre che come... appassionato, diciamo. Sì, un attimo, Chiamparino, ha sentito Ceccanti? Sì, Ceccanti dice una cosa, dice in 20 righe. Ha detto anche lui, è astratto. Perché poi queste cose qui sono van benissimo, se fossimo io e lei a fare a partecipare a questo congresso sarebbe, ma il problema è come viene poi tradotto questo quando si tratta di intanto capire chi so, qual è la platea che vota. E quali sono gli iscritti, perché poi un congresso, ma al di là delle regole, cioè questa cosa qui vogliamo discuterne, perché per esempio io non ci sto, faccio una cosa che io credo di conoscere un po', io non ci sto a dividermi fra due modelli negoziali che considero entrambi datati di almeno 15 anni. Perché fra il neoconsociativismo concertativo della CISL e della UIL e la negoziazione conflittuale della CGIL, io ritengo siano tutte e due soluzioni da primi anni 90, che hanno dato quello che potevano dare con il grande accordo del 93. Vogliamo provare noi, partendo dai vari Chino, Treu e compagnia, a delineare una strada che sia una strada innovativa? Questo, per esempio, supera lo schema di Ceccanti, se vogliamo metterla così. Sì, ho capito, lei dice non è così semplice, non è una situazione binaria. La politica non è solo, facciamo attenzione anche a un'eccessiva mediatizzazione della politica, io credo che un po' di elaborazione, un po' di confronto non faccia male. Vabbè, questo non è sbagliato. Questo intervento di Chiamparino mi consente di dire una cosa anche in relazione alle osservazioni che faceva l'ascoltatore che chiedeva di rompere il Partito Democratico. Una delle ragioni della crisi del Partito Democratico oggi è che in questi mesi, invece di costruire in rapporto con i problemi veri della società italiana una nuova idea, un nuovo pensiero, e qui l'esempio che faceva Chiamparino sulla contrattazione è sintomatico, io sono assolutamente d'accordo con lui. Invece di fare questo, in questi mesi si è cercato una mediazione tra gli ex democristiani ed ex comunisti per vedere di metterci d'accordo sul come gestire di volta in volta le questioni. E qui la crisi vera del Partito Democratico, e non c'è dubbio che se non si esce da questo schema il destino è già scritto, è la fine del Partito Democratico, e questo io credo che sarebbe un guaio, perché noi non possiamo tornare indietro. Ecco perché guai a semplificare questo passaggio così delicato, ecco perché io credo che comunque noi dobbiamo predisporci ad una discussione congressuale, quella vera, quella di fondo, che non siamo nelle condizioni di fare adesso. Chiamparino, lei se lo aspettava che Berlusconi reagisse da spaccone in questo modo? Cioè dicesse avanti il prossimo, lo non faccio. Non me l'aspettavo, però sinceramente non mi ha stupito particolarmente, anche perché obiettivamente un po' guascone lo è, e altrettanto indubbiamente vinto ha vinto, quindi ci può pure stare. Ci può pure stare, anche secondo lei la torre? Oppure non, lei... non è molto, come dire, non è da capo di Stato, ma d'altra parte capo di Stato io non lo considero. Sì, io non ho per niente apprezzato questa battuta di Berlusconi, però anch'io non ne sono rimasto particolarmente stupito, e sono molto d'accordo con quello che diceva lei all'inizio, cioè Berlusconi, proprio perché non è, diciamo, una persona che pensa al futuro del paese, a quale destino della democrazia italiana, ma pensa a domani mattina, quando vede l'avversario in difficoltà gli va giù duro. Probabilmente questa diciamo sia di lezione per noi, perché quando Berlusconi era in grande difficoltà alla fine della scorsa legislatura, forse siamo stati ingenui nel aiutarlo a uscire da quelle difficoltà. Ceccanti, lei di questa reazione di Berlusconi si è fatto una ragione? Ma Berlusconi non ragiona secondo i parametri politici tradizionali, come lei più volte ha spiegato, e quindi lui si esprime con emozioni pure. Emozioni pure, sì, emozioni pure. L'emozione del momento è quella di dire, vabbè, insomma, come diceva Mao Zedong, bastonare il cane revisionista finché è in acqua, oppure non importa che il topo sia grigio o nero, che il gatto sia grigio o nero, l'importante è che prenda il topo. Sì, sì. Berlusconi maoista. Era Deng Xiaoping, se ricordo bene. Questo secondo era Deng Xiaoping. Siamo sicuri? Questo secondo sì, ha ragione. Sono così rimbambito che confondo anche Mao Zedong e Deng Xiaoping. Sono arrivato. Sono alla frutta. Grazie Sindaco Chiamparino, vi auguro un'assemblea costituente. Grazie agli ascoltatori, grazie alla Torre, grazie a Ceccanti. Grazie, vi auguro un'assemblea costituente non anarchica, perché odio l'anarchia. Va bene, grazie a Franca Fossati e Gloria Guerrero in redazione, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Matè, in linea Gianluca Nicoletti con Melog 2, dopo 2.0, dopo il GR. Grazie a tutti, a lunedì.